settimana nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.30 e tramonterà alle 17.13. Domenica ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. La coppiata turismo e enogastronomia è sempre più vincente e organizza molte occasioni di crescita per entrambi i settori. Basti pensare che il 53% dei visitatori di un territorio mette tra le sue mete anche quelle del buon mangiare e bere. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare a una serie di consigli su cosa seminare nei campi, dove il maltempo di novembre ha impedito ogni intervento. Per la rubrica del vino, ferma ancora alla storia, siamo a Carlo Magno, che si occupò direttamente di viti e vino nel suo grande impero. Del Cappello Venere, felce, utile e bella, si occupa la rubrica delle piante, mentre per l'universo suino, seconda puntata sulla giornata specialissima della macellazione domestica di un tempo. Del maiale, per lo spazio della gastronomia, ci si occupa ancora dei pettorai, le pere cotte che un tempo venivano vendute per strada dagli ambulanti, per passare poi, come di consueto, all'andamento dei mercati e alle previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale e poi il proverbio friulano della luna. Mercoledì a Milano è stato presentato il rapporto sul turismo enogastronomico, ovviamente c'era anche il Friuli Venezia Giulia con Promoturismo FVG. Qual è la situazione? Quali punti di contatto? Come il movimento del turismo incontra l'agricoltura, i prodotti della nostra regione? Ce lo spiega Diana Candusso, che è la responsabile dell'area di enogastronomia di Promoturismo FVG. Innanzitutto c'è da dire che la nostra regione, una delle poche se non l'unica, ha anche una legge che regola questo. A Milano abbiamo consolidato quello che è l'interesse dei turisti verso l'enogastronomia nei paesi occidentali ed è in forte crescita la motivazione di viaggio su un viaggio enogastronomico. Il dato che è stato presentato a Milano, quindi questo 53% di turisti che scelgono una destinazione per l'enogastronomia, è un dato che possiamo anche collegare al Friuli Venezia Giulia. Promoturismo FVG, anche grazie alla presenza degli InfoPoint, consolida e testimonia che c'è un interesse sempre maggiore dei turisti che vengono in Friuli a visitare una cantina, a visitare un'azienda agricola o semplicemente ad assaggiare un prodotto anche nei vari agriturismi e nelle trattorie che abbiamo in regione. La presenza di una legge regionale, che è la legge regionale del 22 del 2015, che ha costituito la strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia, ci ha permesso già nel 2015, quindi sono già passati 4 anni, di costruire un prodotto turistico dedicato all'enogastronomia. Le cantine sicuramente sono state gli apripista, però non solo cantine, non solo vino, che cos'altro? Allora, le cantine effettivamente già da anni facevano enoturismo, diciamo, si sono avvicinate, si stanno avvicinando sempre di più quelle aziende agricole, soprattutto anche governate tra virgolette dai giovani che vogliono far conoscere i propri prodotti. Essere disponibili per il turista significa avere un luogo da far vedere, una produzione da descrivere, una storia da raccontare. Un paesaggio da promuovere. Come fate a incontrare il turista e l'agricoltore? Diciamo che gli InfoPoint sicuramente ci aiutano a mettere in contatto quella che è la richiesta del turista con l'offerta del Friuli Venezia Giulia. La strada del vino dei sapori ha all'interno 300 aderenti tra cantine, aziende agricole e ristorazione che garantiscono la visita, ma poi chiaramente ci sono anche agenzie di viaggio, consorzi che sempre di più, proprio legandosi anche al dato presentato a Milano, si stanno orientando su una proposta legata all'enogastronomia. Un agricoltore che pensa di avere qualcosa da promuovere, qualcosa da offrire al turista, cosa deve fare? Sicuramente deve contattarci e semplicemente anche capire in base a quelle che sono le tendenze cosa deve costruire all'interno della sua azienda, perché spesso non sa cosa vuole il turista. Magari basta poco, basta avere anche un luogo dove far sedere il turista, fargli assaggiare il formaggio, farglielo vedere. Lei è appena ritornata da Londra, dove è stata a fare promozione enogastronomica. Che cosa gli ha portato? Cosa gli interessa all'inglese che vuol venire da noi? E soprattutto, come lo tirate qua in Friuli Venezia Giulia? Beh, è un pubblico abbastanza facile, perché non tendenzialmente non mangiano molto bene a Londra. Quindi è molto facile con i nostri prodotti, e parliamo di San Daniele, Montasio, ma di Frico, ma anche di tutta la nostra varietà di formaggi, riuscire a convincerli di venire in Friuli Venezia Giulia. Chiaramente i vini la fanno da padrona. E prima mi diceva che oltre ai ormai classici San Daniele e Montasio spopola il Frico. L'anno scorso abbiamo fatto insegnato a Londra come si fa il fricco. Alla fine è un prodotto anche facile da preparare, quindi anche per gli esteri che magari sono meno avvezzi alle cucine come noi in Italia, il fricco è semplice. Quindi piace, perché comunque ci sono patate e formaggio, quindi anche semplice da fare. Chiaramente però noi diciamo che deve esserci formaggio del Friuli Venezia Giulia, Montasio o di Lateria. Facile da fare ed è molto gustoso. E tutto questo lavoro avrà il suo coronamento a marzo a Trieste con? L'IYTC, la conferenza internazionale sull'enoturismo, per 3 giorni a Trieste, ma anche in tutto il territorio, perché poi li porteremo in giro su tutto il territorio regionale, si parlerà di enoturismo, di turismo enogastronomico, ci saranno 60 buyer provenienti da tutto il mondo che andranno a conoscere le nostre produzioni enogastronomiche, ma soprattutto la nostra offerta legata al turismo enogastronomico. Astronomico. Lo scorso mese di novembre, predominato da piogge continue, è stato difficile per gli agricoltori fare le semine degli autunno vernini. Che fare? Siamo ancora in tempo per riprenderci anche questo tipo di colture? Ci dice tutto Cristina Micheloni per la rubrica del bio. Sì, soprattutto nelle terre più pesanti, chi non è riuscito a seminare a fine ottobre ha poi dovuto fare i conti con piogge praticamente continue, quindi non sono riusciti nemmeno a fare le lavorazioni. Che fare? Se il meteo lo permette, almeno in questi prossimi giorni, si riesce a seminare almeno entro metà febbraio ancora qualche frumento, però va considerato che, visto che andiamo un po' troppo in là, bisognerà utilizzare delle varietà o semi alternative o alternative, cioè quelle che necessitano di periodi più brevi di freddo, quella fase che si chiama vernalizzazione, per passare dalla fase vegetativa a quella produttiva, cioè fare le granelle. Queste varietà però nel nostro territorio non è che abbiano mai dato grandi produzioni, grandi soddisfazioni, quindi si può anche pensare a qualcosa di un pochetto più redditizio, per esempio l'orzo nudo, quello per fare i minestroni, che anche in queste condizioni invece dà delle buone rese. Però ci sono anche altre famiglie botaniche, come il pisello proteico, per esempio, che riesce a fare delle buone produzioni anche seminato verso la fine dell'inverno. Tra l'altro è una leguminosa, per cui si arrangia anche con l'azoto. Anche la barbabietola è una di quelle colture che adesso, soprattutto nel biologico, sta tornando di grande interesse. Chiaramente per seminarla bisogna avere già qualcuno che può essere sicuri che qualcuno la ritira, però è una realtà che sta crescendo. Un'ulteriore opzione, se tutto questo non è possibile, è comunque tenere il terreno pulito con dei passaggi, con uno strigliatore, comunque una gestione meccanica delle infestanti, in modo da arrivare a primavera ed eventualmente seminare delle colture primaverili con un terreno che però è rimasto pulito e non l'abbiamo lasciato in balia delle malerbe. Questa è l'unica cosa che non si deve fare. Se non si vogliono ovviamente utilizzare gli erbicidi, ma questa non è la nostra idea. Per quanto riguarda poi i frumenti che sono stati seminati ma che hanno avuto delle difficoltà in qualche maniera a riprendersi, forse fra un pochino diventa interessante dargli un po' una mano con un po' di azoto, anche questo in forma organica, e magari anche lì un passaggio meccanico allo strigliatore per aiutarlo a arieggiare le radici e quindi riprendersi e prendere un po' quella vigoria che non è riuscito a prendersi all'inizio della fase dopo la semina. Per la rubrica del vino che ci cura il professor Roberto Zieroni, che all'Università di Udine insegna enologia, percorrendo la storia arriviamo ad una figura strategica per vino e vite, niente poco di meno che Carlo Magno. Carlo Magno si trova ad essere il più grande latifondista della storia, con un territorio che era grande, quindi buona parte dell'Europa, e lo deve organizzare da diversi punti di vista. Con Carlo Magno nasce il feudalesimo, cioè la suddivisione del territorio in feudi, cioè in una serie, diciamo, di fidati compagni che devono gestire frazioni di questo immenso territorio. La cosa molto interessante è che si interessa anche di disciplinare le attività rurali, agricole e commerciali delle aziende, diciamo, agricole di questo gigantesco impero. Quindi nel Capitale de Villis è una raccolta, diciamo, di norme pratiche operative per la gestione dei territori agricoli. E nei 70 capitoli in cui si costituisce questo manuale, potremmo definirlo, 9 parlano proprio di enologia. Ne voglio citare 3 che sono veramente molto interessanti. I nostri giudici si interessano delle vigne nostre che fanno parte del loro ministerio, le curino bene e il vino lo mettono in buoni recipienti e stiano ben attenti che in nessun modo si guasti e acquistino un ulteriore vino se non è sufficiente quello prodotto. Ricavino dalle nostre vigne ceppi di vite e ce li inviano per impiantare altrove nuove coltivazioni a nostro vantaggio. I torghi delle nostre ville siano efficienti e funzionali. I nostri giudices provvedono che nessuno si permetta di pigiare la nostra uva con i piedi, ma tutto si faccia con decoro e pulizia. E per ultimo, Vogliamo che ogni singolo Judex abbia sempre pronti dei buoni barili cerchiati di ferro che possono essere utilizzati per le spedizioni militari, chiaramente per contenere i liquidi, o inviati a palazzo e non si faccia mai uso di otri di cuoio. Quindi, anche sulla base, diciamo, di queste regole di organizzazione agraria, nell'VIII secolo si assiste ad un forte impulso della nuova viticoltura, anche in considerazione di un incremento demografico che si comincia a realizzare in quel periodo, che è legato quindi ad un maggiore benessere. Perché? Perché inizia un periodo che avrà un significato nella coltivazione della vite di riscaldamento globale. Cioè, diciamo che a cavallo tra l'alto e il basso medioevo, tra il IX e il XIV secolo, avremo proprio un riscaldamento di tutta l'Europa sino a che la vite arriverà ad essere coltivata financo in Scozia. Oggi Antonino Danelluto ci parla del Capelvenere, pianta leggiadra che possiamo trovare anche da noi e per il nome che porta aveva utilizzi anche contro la caduta dei capelli. Quante volte nel fare visita al fioraio ci siamo soffermati davanti al Capelvenere, attratti dalla sua delicata eleganza, e forse mai avremmo pensato che questa graziosa felce non è solo pianta d'appartamento, ma cresce, seppur non tanto diffusamente, anche allo stato spontaneo nella fascia collinare e submontana della nostra regione. Il suo habitat è costituito da rocce stilicidiose, sorgenti, pareti dei pozzi, cascate, grotte, dove la temperatura varia di poco nell'arco dell'anno. Il suo nome scientifico è Adiantum capillus veneris, quello friulano Chiavei delle Madone. È pianta perenne con rizoma squamoso strisciante. Le fronde molli e ricadenti sono lunghe fino a 50 cm. I piccioli sottili, lucidi e neri, con una certa fantasia, sono stati associati fin dall'antichità ai capelli di Venere. Le foglioline, di color verde tenue, sono disposte a ventaglio e hanno il margine ripiegato per proteggere i sori che contengono le spore. La pianta, infatti, come tutte le felci, è sprovvista di fiori e quindi di frutti e semi e affida la continuità della specie proprio alle spore. In fitoterapia si utilizzano le fronde raccolte in estate ed essiccate all'ombra in luogo arieggiato. Contengono diverse sostanze medicamentose, tra cui mucillagini, tannini e piccole quantità di olio essenziale. Vengono impiegate specialmente nei casi di tosse secca, dovuta ad irritazione delle vie respiratorie superiori come gola e trachea, anche per mezzo di gargarismi. Sono altresì utili per alleviare i sintomi dell'influenza, del raffreddore e disturbi causati sull'apparato respiratorio dalle allergie primaverili. Grazie al loro sapore, molto gradevole, trovano impiego come edulcoranti nella preparazione di sciroppi. Nell'uso popolare, una piacevole tisana ottenuta proprio con le fronde del Capelvenere avrebbe aiutato a rinunciare al vizio del fumo e dell'alcol. Anche questa pianta era stata oggetto della teoria delle segnature di Paracelso. Associata alla chioma di Venere, doveva essere sicuramente destinata al trattamento del cuoio capelluto. Infatti, da sempre si è dimostrata efficace nel prevenire la caduta dei capelli e nel combattere la forfora e i capelli grassi. Per la rubrica dell'Universo Suino con Adriano Del Fabbro siamo ancora al giorno della macellazione, alla seconda fase, quella della lavorazione della carne. Verso le 8 di mattina la carcassa era sul tavolaccio ed era il momento giusto per celebrare il rito della colazione. Le donne preparavano il fegato fresco con la cipolla, un pezzo di formaggio, polenta, un buon bicchiere di vino, a volte si assaggiava quello nuovo perché eravamo già in stagione, e un caffè. I fumatori approfittavano della pausa per accendersi la prima sigaretta della giornata. Il norcino dava i tempi di ripresa, poiché entro sera il lavoro doveva essere terminato, spesso senza la lunga pausa del pranzo che avrebbe fatto perdere troppo tempo e ritardato le operazioni necessarie. C'era solo eventualmente lo spazio per un piatto di minestrone di fagioli o riso con le verze o pasta asciutta condita con la stessa carne fresca del maiale. Le lavorazioni avevano un ordine preciso. La testa, staccata dal resto del corpo, subiva una cura specifica e veniva spolpata da uno degli aiutanti della giornata, in genere. Le cervella impanate erano vera specialità. Qualora si fosse deciso di fare i prosciutti, ma questa era una cosa rara, le cosce venivano subito asportate dalle mezzene e riposte all'esterno a rigore della giornata per farle raffreddare. Parte dell'interiora, le budella, la vescica, gli intestini, dalle donne venivano puliti e lavati nell'acqua corrente e in acqua e aceto e servivano come contenitori per le carni macinate. Prima però bisognava verificare bene che fossero integre e utilizzabili. Si recuperava pure parte dello stomaco per fare le trippe, naturalmente. Dopo aver eliminato le ossa separate da altre parti a seconda della loro destinazione finale, sul tavolaccio si preparavano i vari mucchi divisi per tipologia, distaccato il lardo dalla cotica, si iniziava con la preparazione della salsiccia, confezionata con la stessa carne del salame. Su questo prodotto fine, il primo insaccato che si consumava, si sbizzarriva la fantasia del norcino alle richieste delle famiglie. Qualcuno addirittura aggiungeva all'impasto della grappa o del cognac per renderlo più profumato. Gli aiutanti del norcino, intanto, pestavano le cotiche tagliate a strisce, orecchie e nervi compresi, su un ceppo di rovere perché non doveva produrre schegge. E tutto per preparare alla tripla macinazione a bassa velocità per evitare riscaldamenti dannosi alla carne. Con esse e con le carni meno pregiate e con una maggiore percentuale di grasso veniva preparato il musette, confezionato un po' più tardi. Prima di procedere con le altre lavorazioni, se si era fatta questa scelta, si preparavano i prosciutti. La carne delle cosce veniva rifilata, la cotica in eccesso veniva tolta e gli si dava la sua forma caratteristica a violino. C'è una rinata attenzione per i pettorai, le pere cotte di antica memoria distribuite dai venditori ambulanti, che dopo il contributo di 15 giorni fa nella rubrica delle piante, oggi trova spazio anche in quella della gastronomia con Roberto Zottar. Con il freddo sentiamo il bisogno di bevande e cibi corroboranti, quelli che la moda oggi chiama comfort food, cioè cibo che ha la capacità di soddisfare non solo un bisogno fisico ma anche un emotivo, cibo che dà tepore al corpo, ristora l'anima e ci fa sentire protetti e coccolati. È quindi chiaro che non esiste un comfort food adatto a tutti, ognuno di noi sopperisce alle debolezze con un cibo legato a sensazioni personali, come lo zabaione cremoso della mamma o quella torta di mele profumata della zia. I nostri nonni però non potevano permettersi di essere sofisticati e ricercavano conforto anche solo in un punch caldo, in un buon vin brûlé speziato, ma anche nei pettorai caldi. Parlo di piccole pere che una volta a Trieste e Gorizia erano vendute sia per strada sia negli intervalli nei cinematografi al grido di pettorai caldi, buoni, peri cotti. Il caratteristico venditore ambulante, il pettoraler, era vestito con un grembiule di cuoio e con delle cinghie reggeva tra collo un recipiente di rame pieno di pere cotte, caramellate e fumanti, infilzate a due o tre in bastoncini di canna. Oggi non si potrebbe più vendere così, perché sicuramente si andrebbe incontro a tutta una sfilza di prescrizioni igieniche e fiscali. Il nome pettorai deriva forse dalla convinzione che mangiati cotti e caldi facessero bene al petto e dalla tosse nella frazione dell'apparato respiratorio. I peri pettorai sono un frutto invernale antico, sono note le varietà pettorai di Faedis, di Cialla e di Prepotto. In verità sono una classe eterogenea di pere da cuocere, principalmente ibridi di pero comune e Pyrus nivalis, cioè le famose pere volpine di piccola pezzatura, dall'aspetto non molto attraente, dalla buccia ruvida rugginosa, la polpa soda, granulosa e ricca di tannini, poco succose, scarse di zuccheri e che si possono mangiare solo cotte. Pere volpine per il fatto che sembra che le volpi ne vadano matte, mentre in tedesco si chiamano invece curiosamente Wolfsbirne, cioè pere dei lupi. Medifast riporta due ricette per la cottura al forno, la prima con l'impiego di acqua e la seconda con vino. Potete però cuocerle anche in tegame, in piedi, non sbucciate e con il picciolo. Per un chilo di pere mettete mezzo litro di vino o di acqua che le copra bene, 10 cucchiai di zucchero, stecca di cannella, chiodo di garofano e un po' di scorza di limone arancia. Cuocete coperto fino a che diventano morbide e il sugo scirupposo, denso e caramellato. Vanno servite tiepide, magari congelato alla vaniglia, ma si potrebbero anche arditamente accompagnare a formaggi piccanti. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro il quintale IVA esclusa. La soia tra 34,80 e 35,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,20 e 16,70, il frumento tra 19,10 e 19,40. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 60 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 1,40 euro. Mercato fermo nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni stabili pure nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6 e 40 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,40 e 1,70, i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze diversificate invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza in crescita fissato a 3,48 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello in lieve calo a 1,48. Infine tendenze attive nel mercato degli avicunicoli con i poli a terra pagati tra 0,89,50 e 0,9,15 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,30 e 2,36, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 14 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanutto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. È appena finito gennaio e possiamo quindi farne un bilancio meteorologico. La sua caratteristica principale è stata la presenza frequente dell'anticiclone, con aria spesso mite e secca in quota, e zero termico molte volte ben oltre i 2000 metri e qualche volta anche oltre i 3000 metri di quota. Anche al suolo la pressione ha avuto valori alti, tra il 20 e il 21 quasi da record, attorno ai 1044 ectopascal a livello del mare. Le prime due decadi hanno visto cielo in prevalenza sereno e quindi frequenti gelate notturne in pianura e nelle valli. Nella terza decade del mese, e in particolare dopo il 25, l'anticiclone ha ceduto il passo a correnti atlantiche, che hanno determinato maggiore nuvolosità e umidità, specie su pianura e costa, anche con nebbie. Un paio di deboli fronti hanno portato deboli precipitazioni. Solo sulle Prealpi Giulie e zone orientali il 28 gennaio le piogge sono state un po' più consistenti, ma l'intero mese rimane con precipitazioni molto scarse. Con maggiore nuvolosità di notte, le temperature medie in pianura e nell'ultima decade si sono alzate, mentre in quota si sono in genere abbassate. La media mensile in quota risulta ben 3 gradi sopra la norma, in pianura tra un grado e mezzo grado oltre la norma, sulla costa circa un grado e mezzo oltre la norma. La temperatura del mare ha stabilito il record mensile di 11 gradi e mezzo contro gli 11 gradi e 4 del gennaio del 2001, ben 2 gradi oltre la norma. Da rilevare anche l'assenza di bora significativa sulla costa, con pochi giorni di presenza e velocità massima che ha toccato solo gli 80 km all'ora a Trieste. Domani avremo ancora tempo umido su pianura e costa. In montagna cielo sereno o poco nuvoloso, su pianura e costa da variabile nuvoloso per nebbie o nubi basse, con la possibilità di nebbie estese nelle ore più fredde. In quota le temperature rimarranno decisamente alte per il periodo. Martedì passerà un rapido fronte da nord, seguito da fredde correnti settentrionali. Di notte al mattino nebbie o nubi basse. In mattinata nuvoloso con qualche debole precipitazione e qualche debole nevicata oltre gli 800 metri circa. Dal primo pomeriggio rapido miglioramento a partire dalla Carnia con vento freddo e secco da nord sostenuto. In serata sereno e zero termico a 1000 metri circa. Mercoledì bel tempo con cielo sereno, aria tersa e zero termico a 1000 metri. Sulla cresta alpina al confine con l'Austria possibile variabilità con qualche nevicata. In montagna soffierà vento forte da nord con qualche raffica da difendere nelle valli. Nel pomeriggio soffierà vento forte da nord anche in pianura e bora sostenuta sulla costa. In seguito rimonterà l'anticiclone, ma nei bassi strati rimarrà aria piuttosto fredda. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano dedicato alla luna, alle credenze, ai suoi influssi in agricoltura e non solo. Quando la luna al cerchi, svint sigur, ovvero quando la luna al cerchio, l'alone, colpi di vento sicuri. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.